costruito un'autostrada sul Mediterraneo, dalla Sicilia sino all'Africa, dall'Equatore sino al cielo. Fatti bella amore, bello, fatti bella, resterai giovane se porgi ascolto nella conchiglia, nella conchiglia. Ulisse sbattuto dai venti, alla ricerca della sua Itaca, lontano dalla sua patria, sotto le unghie di una Circe isterica, partito da Calipso, sulla sua strada cicloni e mostri, Polifemo, i ciconi e le sirene, mentre Penelope filava l'ane, ma non si perse mai d'animo, ingannò chi li ingannava, la furbizia era sua sorella, l'astuzia sua anima gemella, prese per mano il suo destino e ne fece alloro per il fieno, e dopo un lungo, lungo viaggio trovò riposo, trovò coraggio. Ho costruito un'autostrada sul Mediterraneo, dalla Sicilia sino all'Africa, dall'Equatore al cielo. Fatti bella, amore bello, fatti bella, resterai giovane se porgi ascolto nella conchiglia, nella conchiglia. Erea era un tipo strano, lui veniva da una sconfitta, per andare dritto dritto incontro a una disfatta, Troia in rovina, perduta ogni speranza, partì per cercare altrove una cittadinanza, senza più una patria, né cavallo da cavalcare, ignoto il suo futuro, senza macchina né motore, ha un modo tutto suo per trovare la sua strada, e ne ha malgrado tutto costruiva la propria storia. Ho costruito un'autostrada sul Mediterraneo, dalla Sicilia sino all'Africa, dall'Equatore sino al cielo. Fatti bella, amore bello, fatti bella, resterai giovane se porgi ascolto nella conchiglia, nella conchiglia. Mille destini tutti diversi, c'è chi scappa per non partire, chi tenace chiude gli occhi per non sentire, per non vedere, c'è chi parte per poter tornare, chi resta ma vorrebbe partire, chi parte ma non torna mai perché non ha più nulla da scoprire. C'è una cosa di cui abbiamo bisogno, di piantare le nostre radici, magari lontani da ogni mondo, sotto i ponti o in mezzo al fango, con la bussola tra le mani, sembriamo esperti marinai, abbiamo tutti qualcosa da proteggere, anche se non leggiamo mai i manuali.